Un simbolo sorge quando qualcosa di interiore, di spirituale, trova la sua espressione nell'esteriore, nel corporeo, non quando, come nell'allegoria, qualche realtà spirituale è arbitrariamente collegata dall'esteriore corrispondenza a qualcosa di materiale, come ad esempio la giustizia alla figura della bilancia. Ciò che è interiore deve piuttosto tradursi nell'esteriore vitalmente, con necessità che scaturisce dalla sua essenza. Così il corpo è il simbolo naturale dell'anima, così un movimento spontaneo è simbolo di un fatto psichico. Inoltre, il simbolo nella pienezza del suo significato richiede di essere chiaramente definito, cosicché la sua forma espressiva non possa valere anche per qualcosa d'altro. Esso deve parlare un linguaggio limpido e ben determinato, e perciò tale che, presupposte le condizioni normali, riesca a tutti comprensibile. Il vero simbolo sorge quale espressione naturale di uno stato d'animo reale e specifico. Così, una volta configurato, possiede contemporaneamente una validità generale non di rado assai ampia, a tutti comprensibile e piena di significato, ma insieme, come l'opera d'arte, deve innalzarsi al di sopra del puramente individuale. Deve esprimere non contenuti psichici unici e irripetibili, ma dire qualcosa sull'anima in universale, sulla vita dell'uomo in se stessa. Affinché sorga pertanto un simbolo genuino, debbono al momento giusto collaborare ambedue le complessioni psichiche che abbiamo più sopra descritte. L'accordo perfetto può risultare solo dal vitale intreccio dei due motivi, dello spirituale e del materiale. Contemporaneamente, lo spirito deve dominare con sguardo vigile e chiaroveggente ogni linea della sua creazione, discernere con sicurezza, delimitare con fine sensibilità, ponderare illuminatamente affinché determinati contenuti spirituali ottengano la loro inequivocabile espressione sensibile. E questa figurazione simbolica ha tanto maggior valore e tanto più merita il suo nome quanto più universalmente valida, pura, limpida, esauriente e riuscita alla compenetrazione della forma sensibile da parte del rispettivo contenuto spirituale. Allora si svincola dalla creatura singola da cui era scaturita dapprima e diviene patrimonio della comunità, e ciò accade in tanto maggior misura quanto più profonda è la vita da cui è sorta e quanto più chiara, per così dire, necessaria è la forma che ha assunta. Questa forza simboleggiatrice si è manifestata ad esempio nella creazione delle forme fondamentali di tatto. In esse rientrano le maniere in cui l'uno manifesta all'altro la sua riverenza o simpatia, quelle con cui si esprime il mondo interiore della vita sociale e simili. Vengono poi, cosa particolarmente significativa per il nostro assunto, i gesti religiosi. Il fatto cioè che l'uomo nell'emozione religiosa si inginocchia, si inchina, congiunge o stende le mani, allarga le braccia, si batte il petto, offre qualcosa e via dicendo. Questi gesti elementari possono svilupparsi più riccamente oppure intrecciarsi e combinarsi l'un con l'altro. Sorgono così molteplici gesti cultuali, ad esempio il bacio della pace o la benedizione. Oppure pensieri determinati trovano la loro espressione in movimenti adeguati come la fede nel mistero della redenzione, nel segno della croce. Da ultimo, un'intera serie di tali movimenti può combinarsi dando luogo all'azione rituale, in cui una realtà spirituale riccamente sviluppata ottiene un'espressione concreta, plastica, per esempio un sacrificio. Nell'atto pertanto in cui si compie quell'estensione del sentimento di sé alle cose che stanno fuori dell'ambito personale di cui già parlammo, emerge nel simbolo il momento materiale. Le cose intensificano la forza espressiva del corpo e dei suoi movimenti. Sono, per così dire, un ampliamento dell'ambito del corpo oltre i suoi confini naturali. Così avviene quando, in un'azione di offerta, il dono è presentato non sulla semplice mano, bensì sopra un piatto. La superficie del piatto accentua l'effetto espressivo della palma della mano e ne risulta, per così dire, un piano dilatato e aperto verso l'alto, verso la divinità, che spicca potentemente di contro alla linea verticale del braccio. Oppure si consideri la nuvola d'incenso che sale ondeggiando. Essa accentua l'espressione del protendersi verso il cielo che insita nelle mani dei fedeli e nei loro sguardi drizzati verso l'alto. La colonna del cero che si drizza snella verso la cima lievemente si assottiglia, sul cui vertice brilla la fiamma e che, bruciando, si consuma, personifica il sentimento dell'offerta presentata volontariamente con nobile disposizione dell'animo. A codesta creazione del simbolo hanno dunque parte ambedue i temperamenti considerati. L'uno, mediante il suo sentimento dell'affinità esistente tra spirituale e corporeo, offre, per così dire, la materia quale prima condizione preliminare della creazione simbolica. L'altro vi contribuisce con la sua capacità di distinzione e la sua consapevolezza della distanza tra i due domini, assicurando chiarezza e determinazione formale. Pure ambedue incontrano nella liturgia difficoltà che contrastano con la loro natura. Ma poiché ambedue hanno collaborato alla creazione dei simboli liturgici, essi possono anche superare queste difficoltà appena il credente si sia convinto della dignità obbligante, almeno in certo modo, della liturgia. Per temperamenti della prima categoria si tratta di limitare una spiritualità esagerata, di riconoscere l'effettiva affinità del corporeo con lo spirituale, di aprire l'animo proprio alla ricchezza che si cela nei simboli liturgici. Essi devono uscire dal loro riservo, vincere la ritrosia con cui si cautelano da ogni espressione dello spirituale nel materiale, accogliere infine realmente quest'ultimo quale organo capace di rivelare la vita interiore. Questo sacrificio assicurerà un arricchimento e un calore tutto nuovo alla loro sensibilità. I tipi dell'altra specie devono invece sforzarsi di arginare l'esuberanza della loro sensibilità, di contenere in limpide forme quanto v'è in loro di indeterminato e di fluido. Per costoro è assai importante riconoscere che la lingua nei suoi simboli è immune da ogni materialismo, che le forme naturali spontanee nella liturgia appaiono tutte trasformate, si riveda quanto si disse più sopra intorno allo stile, in forme riflesse di cultura. Così, per tali temperamenti, il mondo di immagini proprio della liturgia assurge a una scuola di misura e di disciplina spirituale. Chi partecipa con vera dedizione alla liturgia può sperimentare che in genere il materiale, movimento e azione corporea possiede effettivamente un grande significato. Esso ha grandi possibilità di suscitare impressioni, suggerire conoscenze, intensificare l'esperienza religiosa, rendere una verità più efficace e convincente della semplice parola. Possiede esso quindi anche un'efficacia liberatrice, in quanto permette alla vita interiore un'espressione più adeguata di quel che lo possa la mera parola.